adesso collegato il destino dei 26.000 ricercatori che hanno spazio limitato in progressione di carriera e il sistema di incentivazione degli studenti, però diciamo lo spirito è certamente buono. Ecco, appunto, i ricercatori che dicono così si spinge al precariato a vita, oppure tutte le proteste che lei vede, lei come le giudica? Si sono tutti ammattiti? Gli studenti sono preoccupati per un futuro che, se l'Italia non riesce a tagliare i fondi, non riesce a rimediare i fondi per la ricerca tagliando la spesa politica improduttiva, lei pensa alle auto blu, e io come rettore ho rinunciato all'auto blu, vado con la macchina mia, per capirsi, piccolo problema ma esiste nel paese, hai tanti enti inutili per i quali se non si tagliano non si riversano soldi negli investimenti, ricerca e sviluppo, il nostro paese è destinato a soccombere nella competizione internazionale, quindi gli studenti sono giustamente preoccupati per questo, bisogna che la politica bipartisan, destra e sinistra, si metta la mano sulla coscienza e faccia dia uno scrollone definitivo a questo sistema politico che mangia se stesso. Ma siccome lei non ha peli sulla lingua, come si suol dire, quando sente Berlusconi dire i veri studenti sono a casa a studiare, è d'accordo un po'? Sono a casa a studiare, ma sono anche persone che pensano e quindi sono persone che vedono per il futuro. Io ho trovato, sono andato anche in mezzo ai cortei per capire, partivo dalla Sapienza per sentire che facevano, e c'erano studenti di sinistra ma anche di centro, di destra per capirsi, e poi magari si aggiungono i centri sociali, però bisogna rendersi conto che gli studenti hanno per davvero questa preoccupazione per il loro futuro. Senta, le chiedo, una delle norme sulla quale per esempio si concentra il Sole 24 Ore è quella, basta per esempio i rettori che stanno rettori a vita, lei che è rettore, ma io penso un che mandato un limite basta, ai mandati è certamente giusto, bisogna però neanche enfatizzare troppo questo, perché un bravo rettore anche se ci sta un po' di più, comunque bisogna pagare uno scotto alle tante dicerie che ci sono, va bene la limitazione per ora, poi magari in futuro sarà riallungato, quindi va bene, dice spera sì, in poi, sai, quando passa il giacobinismo poi dopo si torna alla ragionevolezza. Lei dice che in realtà si vuole... Comunque non riguarda me, perché io faccio un mandato breve e poi dopo spero di potermi dedicare all'altro. Un mandato breve e basta. Riguarda anche la cosiddetta accusa di baronia, insomma, oppure per esempio di nepotismo. Il problema è quello di non mandare avanti i cretini, gli ignoranti, questo è il punto vero della vicenda. Adesso poi dopo, se si mettono delle incompatibilità, per carità, si paga anche qui uno scotto a certo malcostume, però il problema vero è se vanno avanti i bravi o no. C'è la meritocrazia, si fa con gli indicatori, e se per esempio io, come si dice, un H-index superiore a 40, sono un ottimo ricercatore in campo internazionale. Se uno ha, adesso c'è questo indice di Hirsch, va per la moda per capirsi, e il problema è che magari i rettori che hanno un indice di Hirsch alto sono molto pochi. Per esempio, lei ha risposto più volte al fatto che, credo, mi corregga se sbaglio, sua moglie e suo figlio lavorano alla Sapienza. Come no, però sono persone di grande statura internazionale, non è questo il punto è non tanto quando uno si va a operare da un chirurgo, la domanda che si fa non è se quello è figlio di, ma se è bravo oppure no, e così se è un letterato, un archeologo famoso, uno storico famoso, un fisico famoso. Senta, ma lei ha voluto, mi ricordo qualche mese fa l'abbiamo anche invitata, voleva individuare i ricercatori che non ricercano nulla in pratica, per cacciarli dalla Sapienza. Sì, io sto contestando loro, li mando davanti al Consiglio Universitario Nazionale, sono una cinquantina, attenzione, non solo ricercatori con la R, ma sono anche professori. Anzi, io chiederò per chi più alto in grado, il professore, chiederò la destituzione, per gli associati 6 mesi di sospensione, per i ricercatori 3, cioè più sei alto in grado e più hai responsabilità se hai fatto poco o nulla. Cioè 50, ci sono 50 individuati? Beh, 50 su 4.000 sono una frazione modesta, e il problema è che queste persone svergognano quelli che poi lavorano per davvero fra mille difficoltà e con pochi soldi. Per concludere, rettore, è vero che lei ha un sogno, portare alla Sapienza il Papa, che ricordiamo 2 anni porta fa... Porta aperta a chiunque, è venuto il Presidente Fini, vengono continuamente, è venuto Bersani, questo nel mondo della politica. Io penso che il Papa, una bella lezione sui rapporti fra fede e ricerca, va bene. Non viene all'inaugurazione dell'anno accademico, fu l'errore della volta passata, perché l'inaugurazione dell'anno accademico è accademica. Il Papa non c'entrava nulla. Io penso che porte aperte, magari una bella messa alla cappella e poi un incontro con gli studenti, i professori che ci vogliono andare. Perché l'ultima volta successe un putiferio, no? Firme. Ma fu sbagliata l'occasione in cui fu invitato, e ci fu una reazione anche, direi, Sbagliata anche dall'altra parte, perché oggettivamente poi magari alcuni che criticavano un certo discorso del Papa la manco l'avano letto. Ma c'è chi mi scrive: da quanti mandati fa il rettore Frati? Ma lei è uno. Il primo mandato. Io quando arrivo figlio me ne vado, se non c'è il problema proprio. In attesa che... il mandato che la legge mi consente, senza allungare manco di mezzogiorno. In attesa che dice che torni la ragionevolezza e si riallunga. Assolutamente. Va bene, la ringrazio, rettore, per essere stato con noi. Luigi, arrivederci a tutti. Buona giornata. Luigi Frati, il rettore della Sapienza di Roma. Noi ci fermiamo, pubblicità e meteo, poi parliamo del 5 per 1000 che denunciano le associazioni del terzo settore. Quest'anno è tagliato nella legge di stabilità invece dei 400 milioni degli anni scorsi. Per il momento il tetto è fissato a 100 milioni. Il terzo settore è in subbuglio, dice: ma come ci tagliate il 5 per 1000? Noi vi chiediamo, il nostro sondaggio, se sia giusto un taglio in tempi di rigore finanziario, in tutti i settori bisogna tagliare, oppure se secondo voi questo è un settore che non andrebbe mai toccato. Ma ci sono ovviamente anche delle novità, la vicenda è tutta in evoluzione. Il 5 per 1000 degli italiani, se volete intervenire in diretta 800 24 00 24 24 mattino. Eccoci qui alle 8:33 minuti, parliamo del 5 per 1000 perché il mondo del terzo settore protesta un po' in subbuglio per quello che viene definito il taglio del 5 per 1000. Forse taglio è un termine un po' improprio, cercheremo di capire bene di cosa si tratta. Sta di fatto che il 5 per 1000 degli italiani quest'anno per il momento è fissato a un tetto inferiore rispetto all'anno scorso, quello che viene definito un taglio. E vi chiediamo, secondo voi è una scelta giusta oppure no? Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? L'abbiamo posto così il nostro sondaggio sul sito di radio24.it. È giusto perché in momenti di rigore finanziario bisogna tenere d'occhio i conti e quindi se c'è da tagliare bisogna fare un po' tutti uno sforzo, oppure è sbagliato andare a toccare un settore che non andrebbe mai indebolito, quello delle associazioni no profit, quelle delle associazioni che fanno volontariato o ricerca scientifica, ricerca sanitaria. La questione è questa: che ogni anno il tetto fino a questo momento del 5 per 1000 era stato fissato in 400 milioni, poi da distribuire in base alle scelte degli italiani. Quest'anno per il momento la legge di stabilità l'ha fissato in 100 milioni, dunque rispetto agli altri anni 75% in meno. C'è da dire che il ministro Tremonti ha detto: troveremo comunque i fondi. Ne vogliamo parlare intanto con gli ospiti che presento. Andrea Olivero è il presidente delle ACLI, buongiorno Olivero. Buongiorno a tutti. È anche il portavoce del forum del terzo settore. Saluto l'onorevole Gabriele Toccafondi del Popolo della Libertà, siede in commissione bilancio, buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. E poi anche il nostro Dino Pesole del Sole 24 Ore, sempre molto attento, non solo quirinalista ma anche molto attento ai bilanci dello Stato. Dino, buongiorno. Buongiorno. Ci aiuterà buongiorno. A capire qualcosa di più. Intanto, Dino, con la sintesi che ti è propria, la chiarezza, cerca di spiegarci come stanno i termini della questione, cioè quando i rappresentanti del terzo settore dicono ci scippano, attenzione, ci stanno scippando il 5 per 1000 o ce lo stanno decurtando, hanno ragione oppure no? Beh, nei termini in cui lei ha appena illustrato, sì, nel senso che gli stanziamenti per il 2011 sono stati decurtati al momento del 75%. È avvenuto, occorre ricordarlo, alla Camera, nel passaggio della legge finanziaria o stabilità, come si chiama adesso, perché lì sono state fatte altre scelte. Il governo ha introdotto un maxi emendamento da 5,7 miliardi e lì sono state finanziate altre spese. Il 5 per 1000 è uscito fuori da questo elenco, però c'è da dire che il ministro Tremonti, ma anche il ministro Sacconi, che negli ultimi tempi si è mostrato molto sensibile ad esempio alle istanze del mondo cattolico, ha detto che ci sarà troveranno i fondi, ma ci sarà una riforma strutturale del 5 per 1000, perché questo è un po' il problema di fondo. È stato inserito questo meccanismo nel 2007 e poi di anno in anno è stato rifinanziato. Il problema è che probabilmente dovremo passare ora a una dimensione un po' più strutturale, cioè o renderlo stabile oppure fare anche, come propone Sacconi ad esempio, selezione all'interno dei possibili beneficiari. Comunque la situazione al momento è che gli stanziamenti sono stati decurtati del 75% e al Senato non c'è aria che vengano ripristinati. Quindi per il momento l'allarme c'è. Tra l'altro il tema del nostro sondaggio è questo: il 70% di voi per ora su Radio24.it dice no, è sbagliato, non, meglio tagliare in altri settori. Vorrei da Andrea Olivero e l'onorevole Toccafondi un parere. Andrea Olivero, voi come ACLI, come portavoce del, come forum del terzo settore, avete lanciato da qualche giorno l'allarme. Siete davvero preoccupati o le rassicurazioni del fatto i soldi usciranno vi bastano? Ma noi siamo preoccupati e siamo preoccupati per due motivi. L'uno è evidente, il fatto che il terzo settore arrivi per ultimo, dopo che sono state trovate le risorse proprio per tutti gli altri settori, questo già ci spaventa, perché ci dice che il tema della sussidiarietà, che pure è stato più volte ripreso, come è stato ricordato dai ministri Tremonti e Sacconi in questo anno, poi nella realtà non sta nel cuore e nelle attenzioni del governo. E il secondo elemento molto più concreto è che non sappiamo dopo il 14 che cosa avverrà, quindi è chiaro che se, come ormai abbiamo capito, non ci sarà reintegro al Senato, noi ci ritroveremo con il rischio forte comunque di avere l'anno prossimo soltanto un 1,25 per mille, cosa che realmente snatura questo provvedimento di sussidiarietà fiscale. Tra l'altro, tra poco cercheremo di capire anche la questione delle spese a cui aveva fatto cenno Dino Pesole, dirottate peraltro per altri settori, perché questo ha creato anche qualche polemica. Però, onorevole Toccafondi, qui insomma c'è da capire se dobbiamo credere per il momento a quello che sono, che è la realtà dei fatti, cioè che le destinazioni per il 5 per 1000 sono 100 milioni e non più 400 come negli anni scorsi, o se dobbiamo avere fiducia che questi fondi verranno reperiti. Come ha detto lo stesso Tremonti, però come dire, la spesa pubblica deve avere un vincolo di invarianza intoccabile. E allora da dove escono fuori questi soldi? Possiamo rassicurare gli italiani e il terzo settore? Io mi sento di poter dire di sì. Sì, perché è ormai un patrimonio dello Stato italiano, dell'intero Parlamento, del panorama politico italiano, il 5 per 1000. Lo stesso Tremonti, che lo ha inventato e ha firmato la legge, lo ha detto qualche giorno fa. Quindi, il 5 per 1000, sono le parole di Tremonti, è un'idea di cui sono orgoglioso, voglio reintegrarlo. Queste sono le sue parole. E come mai si è deciso? Io credo che... Come mai per il momento si è deciso? Arrivo. Sì. Sulla legge di stabilità è vero, sono state fatte altre scelte, ma sono state fatte le scelte di finanziare le spese immediate. L'università, di cui tanto si parla, aveva bisogno di 1 miliardo, è stato inserito lì. La cassa integrazione è stata inserita lì. Il finanziamento parziale delle missioni di pace all'estero dei militari italiani sono stati finanziati con la legge di stabilità, sono spese immediate, cioè dal 1° di gennaio queste spese già ci sono. Sul 5 per 1000 del 2011, come le associazioni stesse sanno, questo verrà effettivamente poi erogato e finanziato dalle associazioni stesse, non certo addirittura nello stesso 2011. Quindi questa è la motivazione tecnica per cui, certo, con scarsità di risorse siamo andati ad investire queste pochissime risorse in spese immediate. Spese più urgenti, cioè dice, la coperta è corta, bisognava per il momento, come in una buona famiglia, visto che i soldi sono pochi, coprire le spese più immediate e poi i soldi verranno trovati in qualche altro modo. Questo... Però dicevo, è giusta la preoccupazione, l'allarme delle associazioni, è giusta la preoccupazione anche dei tanti parlamentari che si stanno mobilitando e si sono mobilitati, ma è anche utile chiedere effettivamente, oltre al, è ingiusto anche parlare di reintegro, ma diciamo parlare di 400 milioni di euro, sì, è soprattutto utile e giusto chiedere a gran voce la legge di stabilizzazione del 5 per 1000, perché quello è il vero nodo cruciale, altrimenti questa legge, le associazioni saranno sempre appese a un filo di incertezza. Io tra l'altro, ecco, voglio arrivare proprio a questo dirottamento di fondi. Con il nostro Dino Pesole ci aiuterà a capire qualcosa di più, perché il ministro Tremonti, quando il Fatto Quotidiano ha lanciato questa campagna, questo allarme, ha preso carta e penna, ha scritto una lettera al direttore del Fatto dicendo che lui appunto è il padre del 5 per 1000, è pronto al reintegro e voterà per il reintegro dei 400 milioni, ma al momento si è scelto di incrementare, per esempio, esempio altre scelte, per esempio i fondi per l'editoria e le televisioni private. Dino, intanto ti chiedo se è vero tecnicamente, e poi questo ha creato una diatriba con i cosiddetti direttori dei giornali di partito a dire: per carità, non fate passare l'idea che abbiamo tolto dal 5 per 1000 per salvare i giornali di partito, perché questo crea, insomma, una diatriba inaccettabile. In parte quello che è avvenuto in commissione bilancio è esattamente questo, cioè si è a un certo punto della discussione della legge di stabilità, il governo ha deciso di anticipare nella medesima legge di stabilità alcune misure che aveva destinato al cosiddetto decreto sviluppo di metà novembre, invece l'ha anticipate direttamente nel testo della legge. A quel punto, poiché i soldi, gli stanziamenti erano quelli e non c'era modo di recuperarne altri, si è aperta una discussione in commissione bilancio tra la maggioranza e il governo su come utilizzare questi 5,7 miliardi. Buona parte delle spese, quelle più consistenti, sono appunto dirette all'università, agli ammortizzatori sociali, al parziale rifinanziamento delle missioni italiane all'estero, poi ricordo anche l'autotrasporto, spese definite immediate e inderogabili. Sull'editoria ad esempio si è aperta certamente una discussione e lì si è fatta una scelta. Certo, però è accettabile il discorso, perché guarda, molti ci scrivono, dovevate chiedere, era meglio salvare i giornali di partito oppure il 5 per 1000, messa così forse è un po' esagerata, insomma, come questione, no? Io direi di sì, perché in alternativa, cioè, è come fare, come dire, una guerra tra poveri, perché poiché ci sono scarse risorse, alla fine quelle sono. No, io penso che la strada obiettivamente sia quella della revisione della riforma strutturale di questo meccanismo, che obiettivamente ormai è nell'ordinamento, quindi le associazioni ci fanno conto. Sì. Sto leggendo in questi giorni sulle agenzie l'appello di importanti associazioni, come ad esempio l'Associazione sulla ricerca del cancro. Sì, oggi sui giornali dicono: attenzione, perché abbiamo nuove ricerche per la lotta al cancro, ma senza il 5 per 1000, se non vengono reintegrati questi fondi, ne abbiamo molta difficoltà. Sentiamo cosa ne pensano gli ascoltatori. Sentiamo il primo ascoltatore, Giorgio da Milano, 800 24 00 24, per intervenire. Giorgio, che dice lei? Buongiorno a tutti innanzitutto. Dice. E dunque, no, io sono d'accordo su un attimo la riduzione temporanea a questo punto, perché visto che la crisi colpisce tutti, sia i posti di lavoro che comunque anche il commercio, cioè da tutte le parti viene un po' sentita questa crisi. Nello stesso tempo quindi anche una partecipazione da parte di tutti sulla crisi, quindi con tutti coinvolti nella crisi, una partecipazione servirebbe. Quindi io per di più sono anche in un paio di onlus, sono anche un po' impegnato. Sì. E addirittura emotivamente per problemi familiari sono addirittura impegnato in una particolare. E però dice, nonostante ciò, il rigore finanziario ci impone. Ecco, di... perché io vedo per esempio anche al mio posto di lavoro adesso 120 persone in mobilità, gente di una ditta di 400 persone, che è una ditta medio grande, diciamo, a questo punto, di un gruppo grosso italiano, e 120 persone messe in mobilità. Insomma, il momento, quindi, dice, è un momento di difficoltà, e dunque tutti bisogna tirare la cinghia, uso questa, certo, espressione anche un perché po'... insomma, io ho visto quando c'è stato 5 per 1000 le onlus sono proliferate, addirittura si parlava del salviamo il ciuchino della Marsella. Ah beh, quello certo è anche un altro, se si vuole, un altro aspetto del fatto che all'interno del 5 per 1000 poi si sono proliferate appunto anche delle improbabili sigle, che però poi l'italiano deve scegliere, quindi insomma quando fa la sua destinazione il 5 per 1000, se la vuole destinare a quelli che ha chiamato lei, non mi ricordo, lo fa. In ogni caso, da qui voglio ripartire, dopo le informazioni sul traffico, dal presidente delle ACLI, Oliver. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora, con il 70% di voi che per il momento dice no tagli, anzi 69% dice no i tagli sbagliati o comunque limitazioni sbagliate al fondo del 5 per 1000, presidente Olivero, le chiedo, in questo gioco del out, qualcuno ha detto tagliamo le spese militari, abbiamo sentito che però c'erano le missioni da finanziare questo a gennaio dall'onorevole Toccafondi, spese più necessarie, a lei piace questo gioco del... togliere di qui per dare di là, è un momento di questo tipo in cui bisogna fare questi sacrifici? Ma diciamo che non tocca a noi definirlo. Io credo che ci siano in Parlamento le persone che possono valutare meglio quali sono le necessità e ne hanno anche la responsabilità specifica. Quello che credo sia fondamentale è stare attenti a non tagliare dei fondi che in realtà portano a delle risorse aggiuntive per lo Stato, cioè dei vantaggi reali e concreti per lo Stato. Il 5 per 1000 ha queste caratteristiche, cioè ai soldi che vengono dati dai cittadini attraverso appunto questa forma di sussidiarietà fiscale si aggiungono poi risorse volontarie, perché le organizzazioni che prendono questi appunto finanziamenti sono organizzazioni con base volontaria, quindi con gente che dona il suo tempo, e in più si aggiungono anche donazioni di privati che vanno laddove si vede che l'attività c'è, che l'opera va avanti, ad implementare le risorse che arrivano dal 5 per 1000. Quindi la sussidiarietà, peraltro proprio il ministro Tremonti l'aveva detto anche recentemente, è un moltiplicatore, è una modalità per riuscire ad avere più risorse, peraltro in ambiti, quelli delle politiche sociali prevalentemente, che, oppure quelli della ricerca, che sono anche gli ambiti sui quali si è maggiormente tagliato in questi ultimi anni. Quindi non soltanto il 5.000 non è un costo, ma è un vero e proprio investimento che in momenti di crisi bisognerebbe potenziare. D'altra parte, lo ribadisco, è stata questa la cosa detta e ripetuta dal governo in questi mesi con forte convinzione. È stata fatta anche una campagna di stampa dal Ministero del Lavoro proprio su questo tema: aiuta l'Italia che aiuta. Certo. Poi però ci ritroviamo soli e il governo si dimentica dello slogan. Allora io sentiamo, adesso le risponderà l'onorevole Toccafondi, prima due ascoltatori. Roberto da Milano, buongiorno. Buongiorno. C'è un'eco fastidiosa, non so, sarà la neve. Sarà la neve. Ho spento la macchina. Ho spento la macchina e mi sono fermato. Ha spento la radio. Volevo chiedere questo, sono ignorante in materia, tanto per anticipare la cosa. Volevo chiedere, ma la volontà dei contribuenti che esprimono il desiderio di versare per questo o per questa ONLUS questa fondazione, così non verrebbe meno? Beh, non verrebbe meno, cioè, chi possiamo rispondere? Dino Pesole, non verrebbe meno. Certo, è chiaro che se viene tagliata i fondi un po' verrebbe meno, o meglio, si darebbe meno di quello che uno vuole dare, come dire. No, Dino, l'ascoltatore. Certo. Ma questa diciamo che è una possibilità che viene offerta al contribuente, il quale può scegliere, fa un'opzione. Ovviamente se non esercita questa opzione perde sostanzialmente un diritto, questo sì, però chiaro. Il problema è che ci sono i soldi o no. Gabriele da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, grazie tante. Volevo semplicemente dire, ma come mai si tocca il 5 per 1000 e non l'8 per 1000? E poi se proprio dovessero andare in porto con questa decurtazione, ma avessero il buon gusto di cambiargli il nome, invece che 5 per 1000 o 1 per 1000, perché quello gli stiamo dando. Allora, onorevole Toccafondi, detto che alla prima l'8 per 1000 è regolato da altre leggi dello Stato, che non è che possono... è una questione... No, se si vuole anche un po' polemica, insomma. Ma è giusto, soprattutto la battuta sull'uno ahimè, ciclicamente ritorna, perché guardate, non è la prima volta che tutti insieme stiamo lottando per far tornare tutti i fondi in finanziaria, non è la prima volta, e ripeto, se non c'è una legge di stabilizzazione non sarà, ahimè, penso, presumo, l'ultima. Questo è il primo punto. All'ascoltatore, a Gabriele, l'8 per 1000 è una legge dello Stato a tutti gli effetti, certo. Quindi se la vuoi, se vuoi toccarla, ci deve essere una volontà politica ferma, chiara. Sul 5 per 1000 l'assurdo, come dicevo prima, perché serve la stabilizzazione? Perché tutti gli anni l'assurdo è che occorre a votare nuovamente la legge, la normativa, cioè si riparte da zero, b trovare da zero 400 milioni di euro, certo. Cioè nessuno tecnicamente l'Italia. No, no, sì, ogni anno di bilancio, no, certo. Ho scritto 5 per 1000. Ogni anno vanno rifinanziati, vanno ritrovati. Potevano essere anche 800 milioni in questa logica, no, onorevole Toccafondi? Cioè, sì, volevo terminare se posso. Sull'aspetto di Roberto che diceva, ma non viene meno la volontà, assolutamente sì, ma è per questo che dico che la necessità è quella di stabilizzazione, perché se non viene votata dal Parlamento la norma tutti gli anni e se non vengono trovati 400 milioni o di più tutti gli anni, quella firma lì si può anche non mettere, perché non ha valore. E l'ultimo aspetto su Giorgio, che è uno di quelli, diciamo, il 30% dei favorevoli alla riduzione temporanea, mettiamo così, lui dice la crisi colpisce tutti, ebbene veniva detto poc'anzi che il 5 per 1000 è uno strumento moltiplicatore e quindi ciò che si dà a un'associazione viene, per molte di queste, viene reso come pubblica utilità a tutti. Infatti, e allora se si lo batta... Stato dovesse spendere per quello che fanno tante associazioni, saremmo di fronte a una spesa abnorme, aumentata ancora di più, della spesa pubblica insomma, nazionale. Insomma, onorevole, quindi... per concludere, insomma, la vediamo combattivo a dire si batterà anche lei per trovare questi 400, altri 300 milioni. Vabbè. Però sull'aspetto dei giornali di partito, fatemi dire che il Fondo Nazionale ripristinato con una battaglia di maggioranza e opposizione, con molti contrari trasversali, ma moltissimi favorevoli, ha destinato alla stampa di partito 100 milioni di euro. Non è questo... quel fondo che avremmo risolto il problema, solo tra parentesi. No, ma certo, questo... sommessamente lo dico per completezza di informazione. Devo però assolutamente chiudere. Ringrazio tutti, con Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè in regia, e l'appuntamento è a domattina.